Durante il sonno, l'anima umana non riceve comunicazioni dagli strumenti sensori fisici. Le percezioni dell'usuale mondo esteriore non le affluiscono durante quello stato. In un certo senso, essa è in realtà al di fuori di quella parte dell'entità umana, il cosiddetto corpo fisico, che durante la veglia trasmette le percezioni dei sensi e il pensiero. È allora soltanto in relazione con i corpi più tenui, corpo eterico e corpo astrale, che sfuggono all'osservazione dei sensi fisici. Però l'attività dei corpi più tenui non si ferma durante il sonno. Come il corpo fisico è in relazione con le cose e gli esseri del mondo fisico, ne accoglie le influenze e reagisce su di essi, allo stesso modo l'anima vive in un mondo superiore. La sua vita continua durante il sonno. In effetti, l'anima è in piena attività durante il sonno. Soltanto che l'uomo nulla può sapere di questa sua attività finché non abbia organi spirituali di percezione con i quali durante il sonno possa osservare ciò che si svolge attorno a lui e ciò che egli stesso fa, così come può osservarlo nella vita diurna con i suoi sensi ordinari nel proprio ambiente fisico. Come è stato indicato nei capitoli precedenti, la disciplina occulta consiste nello sviluppare gli strumenti spirituali sensoriali. Quando, per mezzo della disciplina occulta, la vita di sono del discepolo si è trasformata nel modo descritto nel capitolo precedente, egli può seguire coscientemente tutto ciò che si svolge attorno a lui durante quello stato. Può orientarsi per volontà propria nel suo ambiente, come fa con le sue esperienze nella vita quotidiana di veglia per mezzo dei sensi ordinari. A riguardo, è però da notare che la percezione dell'ambiente sensibile ordinario presuppone già un grado superiore di chiaroveggenza, se ne è già parlato nel capitolo precedente. Al principio della sua evoluzione, il discepolo percepisce soltanto cose che sono parte di un altro mondo, senza poterne osservare il nesso con gli oggetti del suo ambiente sensibile quotidiano. Ciò che risulta evidente ad esempi così caratteristici della vita di sogno e di sonno avviene in continuo nell'uomo. L'anima vive senza interruzione in mondi superiori e vi è attiva. Da essi trae gli stimoli grazie ai quali agisce di continuo sul corpo fisico, soltanto che per l'uomo quella sua vita superiore rimane inconscia. Il discepolo dell'occultismo ne diventa invece cosciente. In tal modo la sua vita viene ad essere del tutto trasformata. Finché l'anima non è veggente nel senso più alto, essa è guidata da esseri cosmici superiori. Come la vita di un cieco che abbia acquistato la vista dopo un'operazione diventa diversa da quella che era prima, quando doveva dipendere dall'altrui guida, così la vita del discepolo si trasforma con la disciplina occulta. Egli è maturo per sapersi guidare e da ora in avanti deve assumere la direzione di se stesso. Appena questo succede, egli si trova comprensibilmente esposto ad errori di cui la coscienza ordinaria non ha idea. Agisce ora da un mondo dal quale potenze superiori lo influenzavano prima a sua insaputa, e quelle potenze superiori sono disciplinate dall'armonia cosmica universale. Da tale armonia cosmica il discepolo ora esce. Deve quindi fare da sé cose che prima venivano per lui compiute senza la sua cooperazione. Questa è la ragione per cui i libri che trattano di questi argomenti parlano molto dei pericoli cui va incontro chi ascende ai mondi superiori. Le descrizioni che talvolta vi si trovano di tali pericoli si prestano veramente a far sì che anime timide rabbrividiscano di fronte alla vita superiore. Occorre però dire che questi pericoli esistono soltanto quando vengano trascurate le necessarie cautele. Se invece i consigli suggeriti dalla vera disciplina occulta sono seguiti con cura, l'ascesa si svolge attraverso esperienze che trascendono per potenza e grandezza tutto ciò che la fantasia più audace possa immaginare. ma non si può parlare di danni alla salute o alla vita. L'uomo impara a conoscere forze orribili che minacciano la vita da ogni parte, ha la possibilità di servirsi lui stesso di forze ed esseri che sfuggono alla percezione dei sensi. È anche grande la tentazione di impossessarsi di quelle forze per favorire i propri illeciti interessi o di impiegarle in modo errato per insufficiente conoscenza dei mondi superiori. Di alcune di queste esperienze specialmente importanti, per esempio dell'incontro col guardiano della soglia, si dirà più avanti. Bisogna però tenere presente che le potenze nemiche della vita sono presenti anche quando non se ne ha conoscenza. È bensì vero che allora il loro nesso con l'uomo viene determinato da forze superiori e che tale nesso si modifica quando egli penetra con coscienza nel mondo che prima gli era nascosto. In compenso si intensifica anche la sua esistenza. La cerchia della sua vita si arricchisce di un vastissimo campo. Vero pericolo vi è soltanto se il discepolo, per impazienza o immodestia, assume anzitempo una certa indipendenza di fronte alle esperienze del mondo superiore, se non può aspettare fino a quando non gli venga data una conoscenza sufficiente delle leggi soprasensibili. In questo campo, modestia ed umiltà sono appunto parole molto meno vuote che non nella vita ordinaria. Se però il discepolo fa sue quelle virtù nel loro senso più alto, può essere sicuro che la sua ascesa alla vita superiore si volgerà senza pericolo per quelle che si chiamano salute e vita. Prima di ogni altra cosa, non deve sorgere disarmonia alcuna fra le esperienze superiori e gli avvenimenti e le esigenze della vita quotidiana. Il compito dell'uomo va senz'altro cercato sulla terra. Chi vuole sottrarsi ai doveri della terra e rifugiarsi in un altro mondo può essere sicuro di non raggiungere il suo scopo. Ciò che i sensi percepiscono è però soltanto una parte del mondo. Le entità che si esprimono nei fatti del mondo sensibile sono nello spirito. Bisogna diventare partecipi dello spirito per poterne portare le rivelazioni nel mondo sensibile. L'uomo trasforma la terra, trasferendole ciò che ha conosciuto nel mondo spirituale. Questo è il suo compito. Soltanto perché la terra sensibile dipende dal mondo spirituale, perché si può davvero agire su di essa solo quando si è partecipi dei mondi in cui stanno nascoste le forze creatrici, per questo soltanto si deve voler ascendere a quei mondi. Avvicinandosi alla disciplina occulta con questo atteggiamento, senza mai deviare dalla direzione tracciata, non si ha da temere il minimo pericolo. Nessuno dovrebbe lasciarsi distogliere dalla disciplina occulta per tema dei pericoli a cui dovrebbe andare incontro. Questa prospettiva dovrebbe piuttosto servire ad ognuno di serio incitamento all'acquisto delle qualità che il vero discepolo dell'occultismo deve possedere. Dopo queste premesse, atte a far svanire ogni timore, daremo ora una descrizione di alcuni di questi cosiddetti pericoli. Grandi trasformazioni avvengono senza dubbio nei sopracitati corpi più sottili del discepolo. Tali trasformazioni sono connesse con determinati processi di evoluzione delle tre forze fondamentali dell'anima: volere, sentire e pensare. Le tre forze, prima dell'educazione occulta, sono fra loro in una relazione ben determinata, regolata da leggi cosmiche superiori. L'uomo non vuole, né sente, né pensa arbitrariamente. Se per esempio un determinato pensiero affiora nella coscienza, vi si unisce per legge naturale un dato sentimento o gli fa seguito un'adeguata determinazione della volontà. Si entra in una camera, vi si trova un'aria viziata e si apre la finestra. Ci si sente chiamare per nome e ci si volge alla chiamata. Si è interrogati e si dà risposta. Si sente qualcosa esalare cattivo odore e se ne ha un senso di disgusto. Sono semplici connessioni fra pensiero, sentimento e volontà. Considerando però la vita umana nel suo assieme, ci si accorge che tutto poggia in essa su tali connessioni. Anzi, la vita di un uomo è considerata normale soltanto quando vi si scorge quella connessione fra pensare, sentire e volere, che è fondata sulle leggi della natura umana. Si considererebbe in contrasto con quelle leggi chi, per esempio, godesse alla vista di un oggetto esalante cattivo odore o non rispondesse alle domande. Il risultato che ci si ripromette da una corretta educazione o da un giusto insegnamento poggia sulla premessa che sia possibile stabilire nell'allievo una relazione adeguata alla natura umana fra pensare, sentire e volere. Quando gli si presentano determinati pensieri, lo si fa nel presupposto che in seguito essi si colleghino regolarmente con i suoi sentimenti e con le sue determinazioni volitive. Tutto ciò perché nei corpi animici più sottili, i punti centrali delle tre forze, pensare, sentire e volere, sono fra loro uniti in modo regolare. Tale unione nell'organismo animico si rispecchia anche nel grossolano corpo fisico. Anche in esso gli organi del volere sono in una determinata regolare unione con quelli del pensare e del sentire. Un dato pensiero provoca di norma un sentimento o un'attività volitiva. Nel corso dell'evoluzione superiore, i fili che uniscono le tre forze fondamentali vengono interrotti. All'inizio, l'interruzione avviene soltanto nel caratterizzato organismo animico più sottile, ma durante l'ulteriore ascesa, il distacco si estende anche al corpo fisico. In effetti, con l'evoluzione spirituale superiore, il cervello, per esempio, si scinde in tre parti separate. La scissione è comunque tale che l'osservazione sensibile ordinaria non può percepirla, né gli strumenti materiali più perfezionati valgono a dimostrarla. Tuttavia essa avviene e il chiaroveggente ha i mezzi per osservarla. Il cervello del chiaroveggente superiore si scinde in tre entità indipendenti attive: il cervello pensante, il cervello senziente e il cervello volitivo. Gli organi del pensare, sentire e volere sono allora del tutto liberi l'uno dall'altro. La loro unione non viene più mantenuta da alcuna legge connaturata, ma deve provvedervi la coscienza superiore che si è addestata nel discepolo. Questa è appunto la trasformazione che il discepolo dell'occultismo osserva in sé, che cioè fra un pensiero e un sentimento, fra un sentimento e una decisione volitiva e così via, non si stabilisce alcun rapporto se non sia egli stesso a crearlo. Nessun impulso lo spinge da un pensiero all'azione se egli stesso volontariamente non lo determina. Può ormai rimanere del tutto indifferente di fronte ad un fatto che prima della disciplina occulta gli avrebbe ispirato amore ardente o odio violento. Può rimanere inerte di fronte ad un pensiero che prima lo avrebbe spinto con entusiasmo ad un'azione. Per decisione della propria volontà può compiere azioni per le quali chi non sia passato per la disciplina occulta non sentirebbe la minima disposizione. La grande conquista che il discepolo dell'occultismo consegue è di acquistare completa padronanza sulla collaborazione delle tre forze animiche. Di contro, tale collaborazione ricade anche sotto la sua completa responsabilità. Solo con tale trasformazione del suo essere, l'uomo può entrare in relazione cosciente con certe forze ed entità soprasensibili, perché le sue forze animiche sono affini ad alcune forze fondamentali del mondo. Per esempio, la forza che risiede nella volontà può esercitare un'azione su determinate cose ed entità del mondo superiore ed anche percepirle. Può farlo però soltanto quando nell'anima si sia liberata dalla sua unione col sentire e col pensare. Non appena questa unione si è sciolta, l'azione della volontà si svolge all'esterno. Altrettanto avviene per le forze del pensare e del sentire. Se qualcuno mi invia un sentimento di odio, esso è visibile al chiaroveggente nella forma di una tenue nube luminosa di un determinato colore. Il chiaroveggente può difendersi da quel sentimento di odio, così come un uomo dei sensi può parare un colpo fisico diretto a colpirlo. Nel mondo soprasensibile, l'odio diventa un fenomeno visibile. Il chiaroveggente lo può percepire soltanto in quanto sia capace di dirigere verso l'esterno la forza che risiede nel proprio sentimento, così come l'uomo dei sensi dirige all'esterno la ricettività del proprio occhio. Come per l'odio, così è per altri fatti ben più importanti del mondo sensibile. L'uomo può entrare in comunicazione cosciente con essi se rende libere le forze fondamentali della sua anima. A seguito della descritta dissociazione delle forze del pensare, sentire e volere, e quando non si osservino le istruzioni della scienza occulta, è possibile un triplice errore nell'evoluzione dell'uomo. Ciò può avvenire quando si distruggano i legami fra le tre forze prima che la coscienza superiore sia progredita nella conoscenza abbastanza da poter tenere con fermezza le redini che stabiliscono una collaborazione libera ed armonica fra le forze separate. Di regola, in un determinato momento della vita, le tre forze fondamentali non si trovano ugualmente progredite nella loro evoluzione. In taluno è più progredito il pensare che non il sentire e il volere, in un altro è un'altra forza che predomina sull'altre due, fino a quando rimane integro il rapporto che leggi cosmiche superiori hanno stabilito fra quelle forze, nessun perturbamento, che sia nocivo in senso superiore, può derivare dal predominio di una o dell'altra di esse. Per esempio, nel volitivo, il pensiero e il sentimento, per virtù di quelle leggi, esercitano un'azione compensatrice e impediscono che la volontà preponderante tenda a degenerare. Se un uomo volitivo entra però nella scuola occulta, l'influenza normale del sentimento e del pensiero non esercita più la sua azione sulle manifestazioni impetuose della sfrenata volontà. Dunque, se l'uomo non è progredito al punto di aver acquistato completa padronanza della coscienza superiore, in modo da poter provocare egli stesso l'armonia necessaria, allora la volontà segue la sua via sregolata e lo soggioga di continuo. Sentimento e pensiero cadono in una completa impotenza. Ne risulta una natura violenta che passa da un'azione sfrenata all'altra. Un secondo errore sorge se il sentimento si libera in modo eccessivo da ogni freno regolatore. Chi è incline a venerare gli altri può allora cadere in uno stato di assoluta dipendenza fino a perdere ogni propria volontà o pensiero. Invece della conoscenza superiore, la sorte gli riserva la più compassionevole vacuità e debolezza. Oppure, sempre nel caso di una vita in cui predomini il sentimento, una natura tendente alla pietà e all'elevazione religiosa può cadere in una mania religiosa che la travolge. Il terzo errore si forma quando predomina il pensare. Ne risulta allora una natura riflessiva, ostile alla vita e chiusa in se stessa. Per tali uomini il mondo sembra avere significato soltanto in quanto offre loro oggetti per la soddisfazione della loro smisurata brama di saggezza. Nessun pensiero li stimola ad un'azione o a un sentimento. Ovunque si presentano come nature fredde, indifferenti. Rifuggono da ogni contatto con le cose della realtà quotidiana, come se ne sentissero disgusto o perlomeno come se avessero perduto per loro ogni significato. Queste sono le tre direzioni nelle quali il discepolo può deviare: il prepotere della volontà, la voluttà del sentimento, la fredda e spietata aspirazione alla sapienza. Per un metodo di osservazione come quello materialistico della medicina ufficiale, l'aspetto di una persona che si sia persa in queste vie traverse differisce poco, e solo per il grado, da quella di un pazzo, o perlomeno di un uomo molto malato di nervi. Il discepolo dell'occultismo non deve, ben inteso, somigliarli. Importa che in lui le tre forze fondamentali dell'anima, pensare, sentire e volere, abbiano compiuto un'evoluzione armonica prima di essere dissolte dalla loro ingenita unione e di essere assoggettate all'addestrata coscienza superiore. Se invece l'errore è già avvenuto e una delle tre forze fondamentali viene a perdere ogni freno, l'anima superiore nasce deforme. La forza scatenata invade allora l'intera personalità del discepolo e per molto tempo è inutile sperare di poter ristabilire l'equilibrio. Ciò che nell'uomo è una caratteristica innocua finché non segue la disciplina occulta, e cioè che nella sua natura predomini la volontà, il sentimento o il pensiero, si intensifica invece nel discepolo dell'occultismo, in modo che l'elemento genericamente umano, così necessario nella vita, sparisce in lui del tutto. A dire il vero, il pericolo diventa reale e serio soltanto nel momento in cui il discepolo acquisisce la capacità di avere anche allo stato di veglia le esperienze che ha durante la coscienza di sonno. Finché si rimane alla sola illuminazione degli intervalli di sonno, la vita dei sensi, regolata dalle leggi universali cosmiche, esercita durante lo stato di veglia un'azione compensatrice che ristabilisce l'equilibrio turbato dell'anima. Per questo è tanto necessario che la vita di veglia del discepolo sia sana e regolare in tutte le direzioni. Quanto più egli corrisponde a ciò che il mondo esige da una formazione sana e forte del corpo, dell'anima e dello spirito, tanto meglio è per lui. Può essergli al contrario di grave danno che la vita di veglia quotidiana agisca su di lui in modo da eccitarlo o irritarlo, se alle grandi trasformazioni che si svolgono nella sua interiorità si aggiungono cioè altre influenze disturbatrici o limitatrici provenienti dalla vita corrente. Egli deve cercare tutto ciò che corrisponda alle sue forze, che lo conduca ad una convivenza armonica con il suo ambiente, evitando tutto ciò che pregiudichi questa armonia. In proposito, piuttosto che rimuovere in senso esteriore l'irrequietezza e l'agitazione, si tratta di provvedere a che l'atteggiamento, le intenzioni, i pensieri e la salute del corpo non siano esposti a continue oscillazioni. Durante l'educazione occulta, tutto ciò riesce meno facile di prima, perché le esperienze superiori, che ormai si intessono nella vita del discepolo, agiscono senza interruzione sull'intera sua esistenza. Se nelle esperienze superiori qualcosa non è a posto, l'irregolarità lo insidia di continuo e alla prima occasione può farlo deviare dalla giusta strada. Perciò il discepolo nulla deve trascurare che possa assicurargli la padronanza sull'intero suo essere. Non devono mai venirgli meno la presenza di spirito, l'osservazione calma di tutte le situazioni di cui va tenuto conto nella vita. In sostanza, la vera disciplina occulta genera tutte queste qualità di per sé stessa. Durante il suo corso si imparano a conoscere i pericoli soltanto al momento giusto, quando appunto si acquista piena forza per eliminarli.